Baobab, Rai Radio 1. Saluto il professor Federico Masini, docente di lingua e traduzione cinese, prorettore alla didattica all'Università Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, professor Masini. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, sinologo, con lei parliamo di questa seconda potenza economica e ne parliamo anche perché lei ha curato la prefazione di un libro, il modello Cina, l'Asino d'Oro Edizioni, libro da cui emerge un quadro, un modello cinese che insomma sta dando evidentemente esiti prodigiosi, no? A giudicare almeno dal punto di vista economico. Allora, la domanda che vi siete posti, si sono posti anche, a cui hanno risposto anche i tanti esperti che voi avete raccolto in questo libro, è proprio questa: esiste un modello cinese ed è un modello cinese evidentemente vincente? Ma in realtà il titolo era provocatorio, cioè voler evitare che la Cina venisse facilmente inserita all'interno dei nostri modelli. La Cina vuole essere un modello a sé, vuole tentare di presentare un modo diverso di fare politica, di fare economia, e su questo tema le due curatrici del volume, la professoressa Marina Miranda e la dottoressa Spalletta di AgChina, hanno lavorato alacremente per raccogliere varie opinioni di studiosi proprio su questo argomento, per tentare di dare un'immagine diversa della Cina di quella che normalmente viene. Qual è questa immagine, allora, diversa da quella che solitamente a noi appare? È un paese che non è né socialista né capitalista, sta elaborando un modello politico ed economico a sé, che in qualche modo ricorda la propria tradizione imperiale, e per certi versi la Cina che troviamo adesso è la stessa Cina che trovarono gli occidentali 4 secoli fa, in cui si accorsero che in un mondo che si pensava soltanto occidentale esisteva un altro modello di mondo possibile. È un modello politico, è un modello economico fondato sull'ateismo, fondato sull'assenza della religione, ma soltanto sulla ricerca del benessere privato e umano della società. Per questo forse vale la pena che noi, mondo occidentale, ci poniamo di fronte a questo modello e proviamo a studiarlo. Beh, certo, anche perché abbiamo visto che veramente in tempi brevissimi la Cina ha superato il Giappone, diventando appunto la seconda economia mondiale, e questo già è accaduto lo scorso anno, quindi insomma è una corsa accelerata quella della Cina. Ma che cosa fa la differenza tra la Cina e altri regimi comunisti, ad esempio quello dell'ex Unione Sovietica o dell'Est Europa? Sostanzialmente la tradizione diversa, il fatto che esistono tradizioni politiche, economiche, culturali differenti fra questi paesi, fra quello che è stata l'Unione Sovietica e che è stata la Cina. Se pensate, l'Unione Sovietica dopo l'89 diventata Russia, in qualche modo non ha avuto questo sviluppo economico paragonabile a quello che ha avuto la Cina, e che in realtà il modello del comunismo cinese è molto legato alla propria tradizione, che è una tradizione anche statalista, una tradizione statalista che ha oltre 2000 anni di storia. La vera sfida è vedere nei prossimi decenni se la Cina, che si è dimostrata essere una potenza economica, politica e militare sullo scacchiere internazionale, riuscirà anche a diventare una potenza culturale. Questa è un po' la sfida. Se vincerà questa sfida, allora veramente dovremo dargli atto di aver fatto un miracolo. Ecco, cosa dovrà cambiare per ottenere questo risultato? Perché poi naturalmente della Cina parliamo appunto come di un paese, ad esempio, che ha mire anche economiche su molti paesi occidentali, tutto il continente africano, ma anche l'Italia stessa naturalmente, però è un paese che ancora rimane profondamente legato a regole e a leggi che a noi occidentali insomma fanno storcere abbondantemente il naso. Assolutamente, ma io più che di mire parlerei di potenza economica. La Cina in Africa sta facendo, che cosa sta facendo? Sta sfruttando l'Africa? Non so bene che cosa sta facendo. Certamente noi occidentali, europei, americani, forse su che cosa bisogna fare in Africa non è che possiamo dare grosse lezioni. Vedremo se la Cina riuscirà in Africa a esportare un modello di sviluppo che darà migliori risultati di dei terribili risultati che invece ha avuto la colonizzazione occidentale in Africa. E per quanto riguarda che cosa potrà succedere alla Cina, viene da domandarsi se continuerà a crescere la società civile cinese, cioè se anche dal punto di vista del diritto, della libertà di opinione, la Cina presenterà a un certo punto un modello diverso dal nostro, se svilupperà un sistema politico non democratico a suffragio universale come il nostro, ma comunque un sistema in cui la società civile svolge un ruolo di controllo sulla società politica, sul governo, e quindi anche da quel punto di vista, diciamo, presenterà un modo diverso di governare una popolazione che allo stato attuale è di 1.300.000.000 di persone, quindi molte volte l'Europa. Allora, brevemente, perché siamo quasi in chiusura, ma le voglio chiedere, si stanno affacciando sulla scena politica gli esponenti della quinta generazione, nel 2012 ci saranno elezioni, ci saranno la sostituzione dell'amministrazione di Wen Jiabao e di Hu Jintao, ecco, questi nuovi politici, che politici saranno? Questo è difficile a dirsi, in questo momento è un momento di grande di transizione appunto fra una generazione e l'altra di governanti, quindi è difficile riuscire ad avere un'immagine esatta di quello che saranno quando diventeranno governanti, perché in molti casi una cosa è la politica che viene presentata da coloro che stanno per diventare governanti rispetto a quella che poi effettivamente faranno. Certamente non ci potrà essere un tornare indietro, quel tipo di aperture ideologiche, politiche che ha presentato il primo ministro Wen Jiabao proprio nello scorcio degli ultimi anni della sua presidenza probabilmente lasceranno un segno, e quindi la Cina progressivamente, al di là di chi sarà a governarla, continuerà su questa strada di sviluppo economico e ci auguriamo anche noi di sviluppo civile e sociale, che ci allontanerà certi aspetti della società civile che a noi ci paiono ancora oggi odiosi. Allora, lei è un sinologo, quindi la domanda è un po' pleonastica, però le devo chiedere, insomma, a lei questo modello cinese piace? È il modello dei cinesi, forse non è il mio, ma lo rispetto e lo apprezzo, perché sono stati in grado di non rubare il modello degli altri, ma di tentare di elaborare un loro modello individuale. Se tanti altri paesi fossero riusciti a fare questo, forse vivremmo in un mondo più in pace. Tra le altre cose, insomma, è un sistema di civiltà, tra l'altro, che da 4 secoli un po', ecco, noi lo guardiamo con un po' di sospetto, ma evidentemente i risultati sono tali che... Vediamo se loro vogliono imparare da noi, vediamo se anche noi siamo in grado di imparare qualcosa da loro, non il loro modello, il loro è loro, il nostro è il nostro, ma vediamo se riusciamo comunque a rapportarci. Almeno per osmosi, il meglio dell'uno e dell'altro. Onore all'editore L'Asino d'Oro, che ha avuto il coraggio di questi tempi di pubblicare un libro come Il modello Cina. Grazie al professor Federico Masini, docente di lingua e traduzione cinese, prorettore alla didattica all'Università Sapienza di Roma. Grazie per essere stato con noi. Ora c'è il GR con Gianmarco Trevisi, poi torneremo noi di Baobab, Tiziana Ribichesu e Barbara Condorelli. E Barbara Condorelli, certo.